Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io dicevo di un luogo comune che secondo me è la cosa forse più scontata. Cioè, noi italiani abbiamo anche un debito grosso, ma abbiamo la Fiat, abbiamo la Barilla. E loro che cosa fanno? Olive, yogurt, feta? E sono stata estasiata dalle meraviglie archeologiche. Ho cercato, sono stata a Rodi, ad Atene, Peloponneso, Creta, e quindi in anni diversi. Non ho trovato un popolo attivo, perché? Noi lanciamo venerdì una specie di sfida sondaggio, chiediamo ai nostri ascoltatori: condensate tutti i luoghi comuni attraverso i quali vi raffigurate la Grecia. Riprendo il filo di quella riflessione oggi alla luce del grande accadimento. La Grecia è al centro dell'attenzione non soltanto dell'Europa, ma praticamente di tutta l'economia mondiale, perché il grande gesto di ibris, potremmo dire, di attentato a quella che doveva essere una regola, ha naturalmente riposizionato anche il luogo comune nei confronti della Grecia. Cosa ne pensate oggi della Grecia? Dopo lo schiaffo a Bruxelles, la Merkel dice: avete rotto l'ultimo ponte, il gelo della Germania. Guardate che è interessante vedere la mutazione per quello che è accaduto appunto tra domenica e oggi. Perché? Perché il giorno dopo la trasmissione che abbiamo fatto venerdì è uscita su Repubblica una fantastica pagina culturale sulla crisi della Grecia, ma in soprattutto è un pezzo fatto dall'antropologo, un saggista, Marino Niola, dedicato al luogo comune cosmico nei confronti della Grecia che ha tutta l'Europa, se non tutto il mondo, che si è cominciato a maturare dall'Ottocento in poi. Il titolo è quello strappo tra le due Europe nato per troppo amore verso l'antica Grecia, in cui Marino Niola dice: l'Europa è figlia della Grecia, poi è diventata madre della Grecia e adesso rischia di diventare la sua crudele matrigna. Professor Marino Niola, buongiorno. Buongiorno a voi. Ricordo che Marino Niola è stato già nostro ospite, insegna antropologia dei simboli all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il suo ultimo libro, tra i tanti, è Homo Dieteticus, viaggio nelle tribù alimentari, edizioni Il Mulino. È interessante quello che lei ci ricorda, professore, che in realtà la Grecia come tale è ancora schiava di una sorta di universo mitologico che paradossalmente è stato costruito e immaginato proprio dalla Germania. Sono stati i tedeschi che a un certo punto, innamorati della Grecia classica, hanno cominciato a considerare i greci che loro malgrado abitavano ancora quella terra come degli impropri abitanti di quello che doveva essere un grande parco archeologico. Continua ancora questo pregiudizio. Nelle parole della Merkel: avete rotto l'ultimo ponte, c'è un'eco lontana di questo antico pregiudizio romantico? Assolutamente sì, c'è un'eco. In fondo il grande problema della Grecia è l'antica Grecia, e dicendo questo dico che il grande problema della Grecia in un certo senso sono i tedeschi, ma non solo i tedeschi di oggi, quelli dell'Europa a trazione germanica, ma i tedeschi che fra gli ultimi anni del Settecento e l'inizio dell'Ottocento si innamorano del mito greco, della Grecia antica, e in un certo senso la costruiscono, perché l'immagine che noi abbiamo dell'antica Grecia, quella che abbiamo imparato a scuola, è proprio figlia della cultura tedesca, poi anche di quella inglese, di quella francese, cioè dell'Europa del nord, ma soprattutto tedesca, perché in fondo la filologia classica, l'archeologia, sono delle invenzioni tedesche. L'hanno tirata fuori loro da sottoterra, la Grecia classica. Esattamente, personaggi come Vilamovitz, che è il fondatore della filologia classica, come Mommsen, il grande storico del mondo mediterraneo, come Schliemann, quello che scopre Troia e Micene, cioè proprio le città omeriche. Oddio, aggiungerei von Gloden, che veniva anche in Italia a fotografare i ragazzetti discinti sulle rovine dei templi greci in Italia, che confini probabilmente molto meno ideologici o idealisti probabilmente. Sì, esattamente come questi grandi intellettuali germanici che prestavano Capri e prendevano addirittura in affitto i ragazzini e li vestivano da antichi greci. Sì, con i grappoli d'uva li mettevano lì sul capitello in posa. Erano, diciamo, le foto osè di quei tempi che giravano nei circuiti specializzati. Ecco, però questo trasportato come una sorta di lettura profonda di quello che sta accadendo adesso. Come possiamo decifrarlo? La Germania rappresentava quel gruppo di paesi che in realtà sull'onda della rivoluzione industriale, in parte anche delle nuove idee post-illuministe e via dicendo, avevano una concezione di un'Europa efficiente, moderna. Perché hanno congelato questa sorta di mito di un'Europa che ancora appartenesse a un mito poi interpretato da loro che mai hanno vissuto quel tipo di mito, anzi hanno vissuto miti totalmente antitetici? E su questa onda lunga un pochino ci stiamo anche noi italiani in fondo. Assolutamente sì, perché quando nasce l'Europa moderna, è l'Europa del Nord, e questo lo dice anche Leopardi in un passo bellissimo dello Zibaldone, dice: le antiche civiltà furono tutte meridionali, le nuove civiltà sono tutte settentrionali, cioè la civiltà si è trasferita lontano dalla sua fonte. Però poi Leopardi aggiunge una cosa su cui non si medita abbastanza, dice: ma poi il giro si compirà e la civiltà tornerà al sud da dove è nata. Quindi questo, lasciamo stare la profezia leopardiana per ora, però succede proprio questo, che la modernità che nasce, queste potenze che incarnano la prima modernità, si rappresentano come tali su uno sfondo oscuro, cioè sullo sfondo del Mediterraneo, che invece è il luogo dell'antico. Cioè, sì, però è come luogo. Scusi, se fosse un parco a tema, un parco dei divertimenti per quando vanno in vacanza, questo. Condannati all'archeologia. Ora, però c'è un grande problema. Gli stessi che si sdilinquiscono di fronte alle rovine di Pompei oppure del Partenone, poi invece parlano sempre con disprezzo degli abitanti di quelle terre, cioè degli italiani o dei greci dell'Ottocento, perché sono un'archeologia vivente, e l'archeologia vivente è una specie di scandalo della storia. Quindi noi il ruolo più adeguato è proprio quello di vestirci da centurioni e andare davanti ai monumenti per farsi fare le foto in questa ottica. Esattamente, quello che succede puntualmente a Roma davanti al Colosseo, quando vediamo questi centurioni, è proprio la reificazione dello stereotipo costruito dall'Europa del Nord, e nel quale a un certo momento il mondo mediterraneo si è calato come in un abito, lo ha indossato, lo ha fatto proprio, e quindi abbiamo cominciato a vedere noi stessi con gli occhi del Nord. Ecco perché poi, quando c'è uno strappo, in questo la Grecia, il voto della Grecia, il no della Grecia è un no a un'idea d'Europa, e da questo punto di vista la Grecia non è più indietro, è più avanti con ogni probabilità. Però scusi, ma professor Niola, a questo punto la Grecia si è quasi riappropriata di un gesto epico, è stata veramente una sorta di sfida agli dèi, quelli che attualmente sono gli dèi, che hanno in mano il potere e il destino degli uomini, dire di no. Esattamente, e forse la Ibris non è della Grecia in questo momento, ma è il gesto della Grecia che mette un punto fermo, mette un limite alla Ibris germanica. Infatti è la Merkel che dice: avete rotto il ponte. Pensi quanto è simbolica questa frase. Qualcuno che sta nell'Olimpo dice: avete rotto il ponte, un dio incavolato praticamente. Sì, poi c'è una cosa che non va dimenticata, non solo sul piano culturale ma anche su quello politico e su tutto il resto, anche se mi rendo conto che questo è un tabù. E sono almeno due secoli che non è la Grecia, è la Germania ad essere un problema per l'Europa. 800 24 00 24, vediamo come possiamo attualizzare la luce delle cronache di questa mattina, che stanno infiammando comunque il mondo, non soltanto l'economia ma di chi si pone e si chiede anche quale sarà il destino dei suoi investimenti, dei suoi risparmi, delle sue economie, del suo benessere, per il gesto questa volta epico veramente della Grecia, che ha in maniera sprezzante rotto il ponte con l'Olimpo. La Merkel dice: avete rotto il ponte. Riportiamolo a una sorta di immagine mitologica che piace tanto appunto ai tedeschi, che hanno inventato la lettura corrente del mondo classico, perché loro sono stati filologi, loro sono stati gli archeologi, loro sono stati gli esegeti, loro sono stati i poeti, gli interpreti romantici. Beh, oggi vediamo come vedete la Grecia, che in realtà ha fatto questo gesto di aperta sfida a quello che è il modello che noi abbiamo accettato. Spiros, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie per avermi chiamato. In effetti io sono un osservatore privilegiato rispetto alla Grecia, perché pur essendo italianissimo, come il mio nome fa la spia, sono figlio di italiani nati in Grecia, poi cacciati nel 45 e rinviati in patria dopo aver confiscato i loro beni, cioè i miei nonni erano italiani, i miei genitori entrambi sono nati lì. E la prima volta che sono andato in Grecia avevo 3 anni, nel 59. E abbiamo sempre mantenuto forti legami con la Grecia, perché una sorella del babbo ha poi sposato un greco e quindi ho correntemente quattro cugini in Grecia, quindi conosco quella nazione, quel popolo più che altro benissimo come le mie tasche, sono tra l'altro bilingue con la loro magnifica lingua e quindi vorrei dire un po' la mia. Intanto il professore nel suo incipit mi ispira una riflessione. Intanto la Grecia è sempre stata legata a doppio filo con i tedeschi. Voglio ricordare che il primo re della Grecia libera dall'impero ottomano fu proprio un Wittelsbach, cioè figlio di Ludovico I di Baviera. Quindi, ecco, Ottone, poi traslitterato in Osonas. La Grecia quindi ha avuto questa magnifica e doppia corda di legame con la Germania. La Grecia però ha sempre avuto poco bene a se stessa, perché anche quel re che ha lasciato una magnifica ricostruzione su delle rovine quasi inutili, e cioè creando magnifiche città in stile neoclassico, che i greci poi hanno col metodo e con accanimento distrutto negli anni 60-70. Beh, hanno fatto quello che abbiamo fatto noi in Italia. Ma allora anche peggio. Orrenda, sì, sì, la vista al Partenone è orribile, diciamoci la verità, non è che sia una bella terribile, vista. Terribile. Però ecco, alcuni scorci della Atene contemporanea, come quella di Patrasso, ci riportano a questo magnifico momento. Ecco, però mi consenta. Hanno ricostruito. Spiro da lei voglio, che visto che conosce da vicino e ha nel sangue comunque la grecità, molto di più ce l'abbiamo noi inculcata, a bastonate in testa di padri salesiani, almeno nel mio caso, quindi in maniera molto più violenta. Ecco, mi dia una lettura del gesto epico che è accaduto nella serata di ieri. La Grecia si ribella all'Europa. La Grecia sembrava il paese reietto, venerdì abbiamo fatto l'elenco dei luoghi comuni, c'hanno solo le olive e il formaggio e la moussaka. Ecco, oggi invece la Grecia ha fatto nel bene o nel male, uno può condividerlo, può razionalmente dire che hanno fatto bene, che hanno fatto una cazzata, nel bene o nel male hanno fatto qualcosa che nessun altro ha fatto in Europa. Ma secondo me hanno fatto una grande stronzata, detto in inglese, per un semplice motivo. Un gesto epico può essere anche una stronzata, è un gesto suicida, ma è comunque ammirevole. Secondo me ci sarà un effetto boomerang rispetto a questo, però ecco, urlare che noi siamo la culla della democrazia, urlare che noi siamo quelli che hanno insegnato a tutti che cos'è la filosofia, l'etica, partendo dagli antichi filosofi arrivando ai giorni nostri non c'è niente. E che, passami il paragone che non è poi tanto forzato, e cioè se dico che è come una ex Miss Mondo ormai ottantenne con le tette sbrendole, brutta, che ti dice ti devo ancora ispirare al rapamento, quindi ti devo piacere, quindi io ancora sprizzo sesso da tutti i pori, ma non sta in piedi, anche perché poi il tutto si basa esattamente su questa figura retorica che ho appena proposto. La Grecia non è niente oggi, non ha un sistema economico. E beh, lei dà esattamente ragione a quello che ha scritto il professor Niola, e lo riprendiamo con lui tra un istante dopo il traffico, dicendo che in realtà è un popolo a cui viene rimproverato di occupare impropriamente un territorio dove essere fatto solo di rovine e di interpretazioni su quelle rovine, perché poi quello che veramente abbiano prodotto sono in pochi a saperlo, e anche lì ci sono molti margini di dubbio. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. .800240024, stiamo analizzando la Grecia ancora prigioniera del mito, anche per chi questo mito non l'abbia studiato, approfondito, ne è contaminato al punto tale che oggi parliamo di Grecia soltanto in chiave di luoghi comuni o di echi lontani. Varoufakis, eroe greco che dopo aver vinto si immola per il suo popolo e si dà in pasto ai moderni tiranni. Pietro ci scrive, vede professor Niola, Marino Niola, ricordo che è antropologo e saggista che insegna all'università Rozzalben in casa di Napoli, ha scritto un articolo su Repubblica sabato che proprio parla di questo strappo fra le due Europe, di cui una, quella più arretrata, antica, non al passo dei tempi, è proprio la Grecia. Cosa ne dice questo commento il nostro ascoltatore? Varoufakis, anche lui è entrato in una sorta di categoria di eroi, non sono proprio dei ma sono eroi. Sì, un semidio, diciamo, se non altro un eroe semidio. E questo dimostra ancora una volta che per noi è difficile pensare alla Grecia senza pensare alla Grecia antica, che è un paradigma. Tutte le volte che si parla di quella parte del mondo, l'Ellade, ci viene in mente la statuaria greca, ci viene in mente Fidia, appartenono agli eroi greci, appunto gli dei. E questo per la Grecia è stato anche una condanna, a parte il fatto che io non sono del tutto d'accordo con quello che diceva prima l'ascoltatore, che la Grecia non sia nulla, perché in fondo quello che la Grecia ha inventato vive in noi, perché se noi oggi parliamo ancora di dialettica, di democrazia, di economia, è tutto perché l'aurora di tutto questo è proprio nel pensiero greco, che noi di fatto ci portiamo dietro e spendiamo, continuiamo a spendere quella eredità. Quindi lei comunque stabilisce un nesso di continuità tra i greci moderni e i greci classici, come a noi ci dicessimo oggi siamo eredi dell'antica Roma, del periodo migliore, del diritto romano, della filosofia. Certo. Bisogna vedere se siamo eredi degni o eredi perché uno guarda Mafia Capitale, c'è poco di Cicerone in quello. Però nello stesso tempo certe cose si sono trasfigurate, sono emigrate e comunque sono diventate l'alimento di tutto lo sviluppo della società occidentale. Noi siamo quello che siamo perché in origine siamo greci. Se dovessimo descrivere la nostra identità è quella, è metà Grecia, metà Roma per gli italiani. È anche un po' araba, anche se a molti non piacerà questo. Perché è un po' tinta di araba e un po' tinta di Spagna, anche. Però restiamo mediterranei. Diciamo che se la Grecia ce la siamo ricordata, un po' dobbiamo anche agli arabi, ecco, così magari. E certo, poi ovviamente siamo c'è anche l'altra quota dell'identità mediterranea, che è quella cristiana. E l'insieme di tutto questo poi ci porta ad essere quello che noi oggi siamo, però quello che noi oggi siamo non è detto che coincida con l'idea attuale d'Europa, questa idea di Europa che è fatta di banchieri e di finanzieri, ed non è caso, è un'Europa che disamora sempre di più i cittadini. Ecco, solo una battuta, questo modello fatto di banchieri, qual è la sua scaturigine, dove nasce, qual è l'origine di tutto questo? Nasce proprio dal fatto che a un certo momento la modernità, che prende le distanze appunto da questo passato classico, poi va sempre in una direzione più... Ma c'è un paese, una data storica che dice sono cominciati qua? Beh, io direi sicuramente l'Inghilterra da questo punto di vista. Germania e Inghilterra, quando il pensiero diventa sempre più calcolante e sempre meno speculativo, ed è la civiltà del numero, delle cifre, quella in cui noi oggi viviamo. Mi faccia due nomi di pensatori, poi la lascio andare, so che lei ha fretta, di pensatori a cui possiamo contrapporre naturalmente questo modello. Non so, Stuart Mill da una parte, che inventa l'idea di homo economicus, e poi un altro pensatore che è Hegel, che in fondo nella Fenomenologia dello spirito parla della Germania come di vera erede della Grecia. La ringrazio, professor Marino Gnola, ci ha dato comunque uno spunto di approfondimento per capire meglio quello che sta accadendo. Marilena, buongiorno. Buongiorno, volevo dire, questo legame della Grecia con la Germania, io mi sono laureata negli anni 60 all'Università di Genova ed sono stata obbligata a dare due esami di tedesco studiando latino e greco, appunto perché i testi erano di consultazione, il Mommsen eccetera, erano tutti tedeschi. Comunque sono d'accordissimo col professor Gnola. E non si poteva studiare filologia classica senza sapere il tedesco, male si faceva. Appunto, quindi eravamo obbligati due esami di tedesco nel nostro piano di studi. E questo conferma quello che abbiamo detto. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo solo dire questo, che insomma gesto epico, eroico, mi sa proprio di niente, nel senso che fino a quando... Ma parliamo per metafore, è chiaro. Certo, ovviamente, ma fino a quando hanno preso i soldi andava bene, ora che hanno fatto poi la vita con un tenore appunto di vita superiore alle loro possibilità, non vogliono pagare più. Mi sembra un gesto così. Tutta non l'epica classico. Sì, insomma, ma tutta l'epica rappresentava queste due facce. L'Odissea è la storia di un grande paraculo, alla fine, se lei ben capisce, capito? Quindi evidentemente erano rappresentati gli eroi che morivano tutti in guerra, infatti, e quello che si tornava a casa e faceva un bel giro lungo, si trombava un po' di belle signore, poi tornava a casa e faceva la strage finale e si accomodava dalla moglie che l'aveva aspettato felice. Antonia. Salve, buongiorno. Io sono figlia di una greca e nipote di una profuga greca di Turchia, il famoso esodo dei greci del 22. Quindi l'ha vista tante. In famiglia. In famiglia ho sentito tanti racconti, sono mezza greca, ho fatto di tutto per avere il passaporto greco e l'ho ottenuto, e perché mi sento parte di questo. Oggi da che parte sta lei? Io sono dalla parte del no e dalla parte del popolo greco, perché mi faccio una domanda e non ho mai sentito farla da nessuna parte, almeno per quello che ho sentito io. I responsabili di questa situazione non sono solo il popolo che ha accettato, diciamo, quei favoritismi venduti dai partiti PASOK, Nea Democratia, eccetera. Quindi i grandi responsabili dove sono? Perché possono ancora parlare? Papandreou, con che faccia si è ripresentato le ultime elezioni prendendo un 3%, quando doveva sparire, perché Papandreou è della dinastia dei Papandreou e del PASOK dell'80, che mio padre ha vissuto e lavorato in Grecia per un periodo, e il PASOK, ma la Nea Dimocratia è uguale, c'era il detto Tsavolas ad Ostaola, Tsavolas era un ministro di Papandreou e Ostaola significa dai tutto, in cambio del voto, dai. Beh, sembra un po' che sembra quasi lei stia raccontando l'Italia della Prima Repubblica, del monocolore democristiano, esattamente la stessa storia e la stessa roba. Vedo che poi in fondo noi eredi delle antichità classiche, figli degli dei, alla fine quando ci riproduciamo al di fuori del nostro passato epico, insomma, facciamo sempre un po' le stesse cose. A domani!